sapere di noi due che sarà. Passa il vespro mentre intorno è un quadro di George Lang. Io mi domando perché il fato è complicato e da ogni movimento resto incantato. Credo fermamente, dedicandoti il firmamento. Ero uno di quelli che fanno slalom attraverso la vita. Sono cambiato rivoluzionando minuti, arricchendoli di contenuti. Leggo nei tuoi occhi amore come fosse scritto da Allende. In mezzo a gente che mente, spende e si spegne, che facilmente si arrende. Due soli immortali, pure dopo di noi vivremo per sempre. Highlander, sei la sola che mi prende. Non si vende, non si pente, sono un gendarme. Ma il tuo cospetto, gettoni tipo di arma. Mi giro, ti perdo, poi torni, credo nel karma. Muovi la calma, piatta. Cado nel tempo, Emily Cioran. Elimini ciò che non conta in questo universo d'epero. Sposti i pianeti tipo Clepero. Arrugginito mi hai lavato nell'acqua ragia. Sento ruggito il coraggio, ti ho raggiunto ed ho preso l'attimo. Fuggi, ogni luogo una foto, fuggi firma, fuggi via da qui con me. Io che ho sempre fatto bordello, non è disturbo tipo borderline. Se entri nell'esistenza, non pongo resistenza, è la partenza. Fammi ballare senza fine, superare questo confine. Essere gelosa del mio passato, se sono nato ieri quando ti ho incontrata. Aspetto di sapere di noi due che sarà. Passa il vespro mentre intorno è un quadro di George Lang. Io mi domando perché il fato è complicato e da ogni movimento resto incantato. Credo fermamente, dedicandoti il firmamento. L'antico e l'avvenire si cercano da parecchio. C'è un'assonanza tra Adamo e il marchio della Apple. Una vita che ti aspetto, brividi che mi rendono ricco. Non mi basta solo volare, devo sorprenderti come Maverick. Non canto le solite quattro parole di moda, mo di vocalist è più di un'esigenza. Questa storia del rap ancora verso la mia meta, come un quarterback. Nessuno ferma questa ascesa e mi completerei con te. Fatto tutto da me, senza parenti, tra parentesi, senza un lavoro pronto. Ognuno ha il proprio passato, il mio non è peggiore del vostro. Per una stagione il mondo è nostro, un castello nella costellazione. Una firma nel firmamento, la fine del gelo. Adesso risplendono entrambi soli zen. Non sarai una storia inventata, ti dedico tutto, sfrutto questa ventata. Vivendo d'intenso, chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo. Fammi ballare senza fine, superare questo confine. Essere gelosa del mio passato, se sono nato ieri quando ti ho incontrata. Aspetto di sapere di noi due che sarà. Passa il vespro mentre intorno è un quadro di George Lang. Io mi domando perché il fato è complicato e da ogni movimento resto incantato. Credo fermamente, dedicandoti il firmamento.